Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. Tredicesima puntata. Suonarono le 8. E finalmente le 9. Loro passarono dalla tavola al divano. Zverko si sdraiò sul canapè, mettendo un piede su un tavolino rotondo. Trasportarono lì anche il vino. Effettivamente lui aveva messo fuori 3 bottiglie del suo. Me, si intende, non mi invitò. Tutti sedettero intorno a lui sul divano. Lo ascoltavano quasi con venerazione. Si vedeva che gli volevano bene. Come mai? Come mai? Pensavo tra me. Di tanto in tanto erano presi dall'entusiasmo dell'ubriachezza e si baciavano. Parlavano del Caucaso, di quel che è una vera passione, delle destinazioni convenienti che si avevano in servizio, della rendita che aveva l'ussaro Podchartsevskij, che nessuno di loro conosceva, e si rallegravano che avesse una grossa rendita. Infine si giunse a dire che Shakespeare è immortale. Io sorridevo sprezzantemente e camminavo dall'altra parte della stanza, proprio di fronte al divano, lungo la parete, dalla tavola alla stufa, dalla stufa alla tavola e viceversa. Con tutte le mie forze volevo far vedere che potevo anche fare a meno di loro, eppure battevo apposta il pavimento con gli stivali, drizzandomi sui tacchi. Ma tutto questo non serviva. Loro nemmeno ci facevano attenzione. Ebbi la pazienza di passeggiare così, proprio davanti al lavoro, dalle 8 alle 11, sempre nello stesso punto, dalla tavola fino alla stufa e viceversa, dalla stufa alla tavola. Così me ne passeggio e nessuno me lo può proibire. Il cameriere, che entrò più volte nella stanza, si fermò a guardarmi. Per effetto delle frequenti voltate mi girava la testa. A momenti mi pareva di avere il delirio. In quelle 3 ore sudai e mi rasciugai 3 volte. A tratti, con profondissimo e caustico dolore, mi trapassava il cuore il pensiero che sarebbero passati 10 anni, 20 anni, 40 anni, e io magari anche 40 anni dopo avrei pur sempre ricordato con repulsione e umiliazione quei momenti, che erano i più sudici, i più ridicoli e i più orrendi di tutta la mia vita. Umiliarsi da sé in modo più cinico e più volontario era ormai impossibile. E io lo capivo in pieno lo capivo. Eppure continuavo a camminare, dalla tavola alla stufa e viceversa. Oh, se sapeste di quali sentimenti e pensieri sono capace e come sono intelligente. Pensavo a momenti rivolgendomi mentalmente al divano, dove erano seduti i miei nemici. Ma i miei nemici si comportavano come se non fossi nemmeno stato nella stanza. Una volta, una sola volta, si girarono verso di me, precisamente quando Zverkov si mise a parlare di Shakespeare, e io tutt'a un tratto scoppiai a ridere, sprezzantemente. Soffiavo in modo così artificioso e abbietto che tutti loro interruppero di colpo la conversazione. E stettero a osservare in silenzio per un paio di minuti, seriamente, senza ridere, come camminavo lungo la parete, dalla tavola alla stufa, e come non rivolgevo loro nessuna attenzione. Ma non ne venne fuori nulla. Non si misero a parlare con me, e di lì a 2 minuti mi lasciarono di nuovo. Suonarono le 11. Signori, gridò Zverkov levandosi dal divano, adesso tutti là. Certo, fecero gli altri. Io mi voltai bruscamente dalla parte di Zverkov. Ero tanto esausto, tanto affranto, che a costo di ammazzarmi, volevo finirla. Avevo la febbre. I capelli bagnati di sudore mi si erano appiccicati alla fronte e alle tempie. Zverkov, vi chiedo scusa, disse in tono brusco e risoluto. Per Fikin, anche a voi. E a tutti. Ho offeso tutti. Il duello non è una cosa da niente, sibilò velenosamente Ferfichin. Provai una dolorosa ferita al cuore. No, non è del duello che ho paura, Ferfichin. Sono pronto a battermi domani con voi, dopo che ci saremo riconciliati. Anzi, ci insisto. E voi non me lo potete rifiutare. Voglio dimostrarvi che non ho paura di un duello. Voi sparerete per primo. E io sparerò in aria. Se la racconta da sé, osservò Simonov. Semplicemente ha perduto la testa, fece Trudo Lyubov. Ma permetteteci di passare, perché ci state attraversando la strada. Beh, che cos'è che volete? Rispose sprezzantemente Zverkov. Erano tutti rossi. I loro occhi luccicavano, avevano bevuto molto. Io chiedo la vostra amicizia, Zverkov. Vi ho offeso, ma... Offeso? Voi? Me? Sappiate, egregio signore, che voi non potete mai e in nessuna circostanza offendere me. Smettetela via, confermò Trudo Lyubov. Andiamo. Olimpia è mia, signori. Facciamo il patto, gridò Zverkov. Non ve lo contestiamo, non ve lo contestiamo. Gli risposero ridendo. Rimanevo lì vituperato. La brigata usciva rumorosamente dalla stanza. Trudo Lyubov intonò una canzone e Simonov si fermò un momentino per dar la mancia ai camerieri. Tutto a un tratto mi avvicinai a lui. Simonov, datemi 6 rubli, disse in tono risoluto e disperato. Lui mi guardò, straordinariamente stupito, con uno sguardo ottuso. Anche lui era ubriaco. Ma venite anche là con noi? Sì. Io non ho denaro, fece tagliando corto, sorrise sprezzantemente e uscì dalla stanza. Io lo afferrai per il cappotto. Era un incubo. Simonov, ho veduto che avete del denaro. Perché me lo rifiutate? Sono forse un mascalzone. Guardatevi dal rifiutarmelo. Se sapeste per che cosa lo chiedo. Da questo dipende tutto, tutto il mio avvenire, tutti i miei progetti, tutto. Simonov tirò fuori il denaro e quasi me lo buttò. Prendete, se siete così indelicato, disse spietatamente, e corse a raggiungere gli altri. Io rimasi solo per un momento. Disordine, avanzi, il bicchiere rotto sul pavimento, del vino versato, mozziconi di sigarette, ubriachezza, delirio in capo, una tormentosa angoscia nel cuore. E infine il cameriere, che aveva visto tutto e sentito tutto, e mi guardava curiosamente negli occhi. Là! Gridai. O loro tutti in ginocchio, abbracciandomi le gambe. Imploreranno la mia amicizia, o darò uno schiaffo a Zverkov. Sì che eccolo, finalmente, l'urto con la realtà. Borbottavo scendendo a precipizio la scala. Questo, a quanto pare, non è più il Papa che lascia Roma e parte per il Brasile. Questo a quanto pare non è più il ballo sul lago di Como. Sei un mascalzone se ora ridi di questo, mi balenò per il capo. Sia pure, gridai, rispondendo a me stesso. Del resto, ora, tutto è perduto. Loro erano scomparsi, senza lasciar traccia. Ma era lo stesso. Sapevo dove erano andati. All'ingresso c'era un solitario vetturino in servizio notturno, col suo gabbano, tutto incipriato di quella neve bagnata e come tiepida che continuava a venire giù. L'aria era calda e si soffocava. Il suo piccolo cavalluccio pezzato dal pelo irto era anch'esso tutto incipriato e tossiva, lo ricordo benissimo. Io mi gettai nella slitta di legno di Tiglio, ma non appena portai avanti la gamba per sedermi, il ricordo di Simonov, che orora m'aveva dato i 6 rubli, mi stroncò addirittura e caddi come un sacco nella slitta. No, bisogna fare molte cose per riscattare tutto questo, gridai. Ma non riscatterò, o questa notte per il rosso posto. Va, va, scendetemi in cammino. Tutto un turbine girava nella mia testa. A implorare in ginocchio la mia amicizia non ci si metteranno. Questo è un miraggio, un volgare miraggio, ripugnante, romantico, fantastico, proprio come il ballo sul lago di Como. E perciò devo dare uno schiaffo a Zverkov. Sono obbligato a darglielo. Sicché è deciso. Ora volo a dargli uno schiaffo. Frusta, frusta! Il vetturino diede uno strattone alle redini. Appena entro, glielo do. Glielo do. Prima dello schiaffo occorre dire qualche parola. Occorre dire qualche parola? A mo' di prefazione? No. No, semplicemente entro e glielo do. Tutti loro saranno seduti in sala e lui sul divano con Olimpia. Maledetta Olimpia. Una volta ha riso della mia faccia e mi si è rifiutata. Trascinerò via Olimpia per i capelli e Zverkov per gli orecchi. No. No, no. No, meglio per un orecchio solo. E per l'orecchio lo condurrò attraverso tutta la stanza. Tutti loro forse cominceranno a picchiarmi e mi spingeranno fuori. Anzi, è sicuro. Sia pure. Sarò stato pur sempre io a dare lo schiaffo per primo. L'iniziativa è mia. E secondo le leggi dell'onore basta. Lui è già bollato. E non ci saranno botte, ormai, con cui potrà lavarsi dello schiaffo. A meno di un duello. Dovrà battersi. E adesso loro mi picchino pure, sia pure. Sia pure, sia pure ingrati. Mi picchierà specialmente Tudor Lyubov. È così forte. Ferfikin mi agguanterà di fianco. E senza dubbio, per i capelli, di sicuro. Sia pure. Sia pure, ci faccio assegnamento. Le loro zucche di pecoroni saranno pur costrette finalmente a cogliere il tragico di tutto questo. Quando mi trascineranno verso la porta, griderò loro che, in sostanza, non valgono il solo mio mignolo. Frusta, vetturino, frusta! Io gridai all'uomo. Lui sussultò addirittura e agitò la frusta. Il mio gridare era stato troppo strano. Frusta! All'alba ci batteremo, è già deciso. Col ministero è finita. Ferfikin poco fa, invece di ministero, ha detto minestrero. Ma dove si possono prendere delle pistone? Sciocchezze. Prenderò un anticipo sullo stipendio e le comprerò. E la polvere? E la palla? E questo riguarda il padrino. E come fare tutto questo in tempo per l'alba? E dove prendo il padrino? Conoscenti? Conoscenti? Conoscenti non ne ho. Sciocchezze! Gridai lanciandomi ancor di più nel turbine. Sciocchezze! La prima persona incontrata per via alla quale mi rivolgerò è obbligata a farmi da padrino, esattamente come attrarre dall'acqua uno che anneghi. I casi più eccentrici devono essere ammessi, e se domani io chiedessi magari al direttore in persona di farmi da padrino, anche lui dovrebbe acconsentire. Per puro spirito cavalleresco e conservare il segreto. Anton Antonich. Il fatto è che in quello stesso momento mi apparve più chiaramente, luminosamente, che a chiunque altro al mondo tutta la disgustosissima assurdità delle mie supposizioni e tutto il rovescio della medaglia. Frusta, Vittorino, frusta, briccone, signore! Proferì l'uomo della terra. Tutta un tratto fui colto dal freddo. E non sarebbe meglio? Non sarebbe meglio andare direttamente a casa? Dio mio, perché ieri ho voluto partecipare a questo pranzo? No, è impossibile. E quella passeggiata di 3 ore dalla tavola alla stufa? No. Loro, e nessuno altro per quella passeggiata. Devono lavare questo disonore, frusta. E se loro mi porteranno al commissariato? Non oseranno. Avranno paura dello scandalo. E se Zverkov per disprezzo rifiuterà il duello? Questo, anzi, è sicuro. Ma allora glielo farò vedere a loro. Allora mi precipiterò alla posta domani, quando partirà. Lo afferrerò per una gamba. Gli strapperò via il cappotto quando salirà in vettura. Gli ficcherò i denti nella mano. Lo morderò. Guardate tutti a che punto si può ridurre un uomo disperato. Lui mi picchi pure in testa e tutti loro dietro. Griderò a tutta la gente. Guardate, ecco un giovane cucciolo che va a sedurre le circasse col mio sputacchio sul viso. Si intende che dopo questo ormai tutto è finito. Il ministero è sparito dalla faccia della terra. Mi agguanteranno, mi processeranno, mi cacceranno dal servizio, mi metteranno in prigione, mi manderanno in Siberia al confino. Non importa. Tra 15 anni gli andrò dietro in cengi, da poveretto, quando mi faranno uscire di prigione. Lo scoverò in qualche capoluogo di provincia. Sarà ammogliato e felice. Avrà una figlia grande e dirò: Guarda, mostro, le mie guance infossate e i miei cengi. Io ho perduto tutto. Carriera, felicità, arte, scienza, donna amata, e tutto per causa tua. Ecco le pistole. Sono venuto a scaricare la mia pistola e ti perdono. Allora tirerò in aria e scomparirò senza lasciar traccia di me.